stata quella cosa. Allora, se vediamo, c'è anche un altro tipo, non so se è il tipo che aggiusta le questioni, come ha detto Massimiliano. Infatti ho detto, guarda che c'è la capsa dell'M300, non vorrei che, senza sapere che era il tipo che aggiustava la questione, capito? E niente, ha detto che forse per domani non ce la fa, comunque per dopo domani è tutto ok. Bene, bene, bene, no, non ci sono problemi, non ti preoccupare. Tutto sotto controllo. Sì, quello è Gavino, il cognato di Massimiliano. Grande, grande, grande tecnico, non problema. No, io giustamente l'avevo sì conosciuto tempo fa, ma non me lo ricordavo neanche. La verità, ho detto, guarda, qua c'è la capsa all'M300 nel microfono, non vorrei che sparisca, Massimiliano. E lui, oh, guarda che lui che te lo ripara. Ah, beh, se lui, tanto piacere. L'importante è lo sappia anche lui che c'era quella capsa lì. E niente, ma detto se il pezzo va a prenderlo lui e poi si faceva il don conto. E non c'è problema, lo prende lui, lo mette a lui e poi non ci stanno problemi. Ehi, positivo. Lascia fare tutto a lui che sa quello che deve fare. Ok, cosa ti stavo dicendo? Un'altra cosa e non me ricordo più. Ma quindi tu praticamente l'MP5 lo usavi quando io ti sentivo forte di radio, lo stavi usando con la col Mobicon allora? Esatto, esatto. Massimiliano, quindi stai tranquillo. Ma mai fatto quella video, sa mai magari me l'ha staccato, cioè, e diceva questo non è originale, quindi la sostituivo, capito? Perché lui già ne ha dei pezzi. No, non c'è nessun problema, tutto sotto controllo, poi per l'altra radio noi la diamo in mano a Gigino e gli accianaccia lui. E diventa come quella di Luigi, capito? Così di Lavini soffrì e c'è una radio 30 watt, regolabili, già salvaggia Luigi. E c'è una bella radio, quella veramente, la 87 è una bomba, va molto molto bene. È positivo. Sperando sempre non sia questa grande cifra di spesa, eh? Ma tu non ti preoccupare, ha detto. Non ti preoccupare, fai fra noi, non ti preoccupare, dormi tranquillo, come di Attulio, vizzino e gratta di Lugabu. E non si stanno a problemi, dai. Cavallo, ce l'abbiamo il cavallino in corsa oggi, bello il casino, bene. Appena la seconda corsa, questo minimo li finiscono all'una, all'una e mezzo, alle due del mattino. Ma ecco perché stamattina ero là dietro, mi ha detto dottor Moro, il sindaco, che appunto doveva venire a Sassari stasera e c'è la corsa dei cavalli, che lui c'ha i cavalli di Raero, il podromo Raero si offende Raero, ma bello è molto, io penso che sia più grande di questo di Sassari, ma bello, c'è l'albergo, ristorante, pizzeria all'interno, grandissimo, enorme. Maria Raero. Lei è positivo. Positivo all'aereo proprio appena fuori l'aereo hanno fatto là in un terreno sempre di questo del sindaco. È una cosa bella. Belli sono tutti puro sangue. Infatti adesso mi faccio fare lo stemma da Pietro come targhettine e le distribuisco a tutti i cavallini puro sangue, capito? Così ci abbiamo anche lo stemma a parte la maglietta. Già va bene. E Gigino Vulcano, come ha detto la mamma, se n'è andato. Gigino Vulcano, ascolti qua, Sparviero. E sento una popolazione sotto, ma non so chi sia. Proverò il telefono con Luca, proverò, tanto non lo sentivo, ci abbiamo scambiato due chiacchiere. Nel frattempo ho mangiato un boccone, e adesso siamo qua nuovamente in radio. Non è entrato nessuno. Gianni Capridua non è entrato. Vabbè, da Sirica non ho sentito nessuno, Giusto mi ha chiamato Massimiliano a dirmi che era giù. Sono sceso e andato con la commissione, adesso ero in radio lo stesso, ho sentito a te, ma no, niente, non è entrato nessuno. Per il momento non è entrato nessuno. Sento qualcuno sottofondo, ma roba di poco conto, Boh, mi sembra Pippo da Varsavia, era la chiamata. Attenzione Pippo, sei tu da Varsavia, cambio. E basso arriva. Magari sente la popolazione sotto, ma no, non riesco a capire niente. Ma io sento un po' questa radio che è allucinante. Per due anni era dentro l'armadio, per due anni buoni dentro l'armadio, me l'ho accesa una fucilata. È una bella radio e poi non ha sentito il tipo, ha sentito ieri a Pinocchio Armono, dice Santiago 5, ma la radio non ce n'era per nessuno. Queste sono proprio da combattimento, capito? Spinge l'eco, maledizione. No, beh, di potenza 5 per Budujo va anche troppo bene. Non ho grandi potenze. La prossima settimana, adesso vediamo se domani vado, tanto devo andare a ragione, non si possono sacrificare 2000 euro per un marecchino, in effetti se riesci, se ti fa un buon prezzo ti prendi quello e lo lasci solo con quello, con quel marecchino lì, dai, marecchino a battaglia. Poi devo trovare un 10-2 anch'io che abbiamo modificato la rotta 87. Perché non c'è buona pigli forse. Penso proprio di sì. Yeah. fai una cosa, la valigia su un tanto ho fatto un video. Grazie. siamo anche più vicini, siccome lì ci siamo poi tra i campagna che conosco, almeno qualche bicchiere lo possiamo bere. Già va bene. Bello, sono delle feste fatte bene, in compagnia, sì, ci si diverte, ci si discute, ci si fa. E cosa volevo dire? Ma siamo sempre gli stessi o altra gente, Claudio? Mai la strada vecchia per la nuova, sempre quella vecchia noi prendiamo, stesse persone, la nostra mancata, quelli che l'avevamo seduti tutti vicino, io, tu, Luigi, Giovannino, Virillo, Massimiliano, Vittorio, Mario Bevemonto, tutta quella mancata lì, capito? Tutta quella mancata lì, Costanzo, tutti quelli. Poi se ne hanno voglia magari si avvicina qualcuno anche dalla zona di Cagliari e di Oristano, capito? Adesso vedrà Luigi quello che deve fare, però quelli che dobbiamo andare è sempre gli stessi, non si deve aggiungere altro nessuno, ho già detto a Luigi, a circuito chiuso, perché questa è una bella compagnia che viaggia tranquillamente, visto che nessuno ha parlato di radio, nessuno ha parlato, si scherzava e si vedeva di tutte altre cose. E così è troppo bello, senza gela media e senza lunga. Si conferma. Comunque, a Pinocetto l'ho sentito anch'io oggi, la verità, era giù a Platamona a consegnare il carbone. Ma parlando più almeno, ti ha fatto i complimenti per la tua radio, la tua stazione, ha detto che non ce n'era per nessuno. E poi siamo stati parlando di più almeno, no? E poi che dire, mi ha detto guarda, mi stanno telefonando e già riprendo. Boh, penso meno cento al molo. Lui è la scena. Dice che con l'apparato tuo mi facevi cadere il topo dalla trave. Che stamattina mi hanno detto su questa cosa che hai attaccato, ho visto un topo, ne è caduto a testa a terra dalla trave e penso che non si sollevi più, mi ha detto. Partino, devi stare lì, ma Roma, molto vago, lo faccio domani. con quello che esce, se tu poi ti trattini, tanto non lo fai tu, lo fa un altro e non ci saranno problemi. Lui fa bene quando riesce lavoro, andare, fare, e tutto è buono, è tutto buono per la, sia per la pagnotta, sia per la casa, sia per tutto, è meglio che uno si dia da fare. E Pinocchetto penso che sia uno di quelli, non si tira indietro su niente, diciamo, già è una brava persona, poi è anche conosciuta lì in verticale, già è, a parte è una persona seria, poi è, dai, già va bene, sono delle persone top, dai, abbiamo conosciuto delle persone verticali, veramente, delle persone meritevoli e tutto quanto. Io ho parlato anche con Vittorio stamattina, che Vittorio è di Bancale, non so se lo sai, mi ha salutato, mi ha detto quando voglio scenderci e farlo in vista, ci prendiamo un caffè, lo metto lì, momentaneamente sono attacca a suola, ma se capita Vittorio non ci stanno problemi. Poi gli ho chiesto a vedere se si era trattenuto il giorno, no? Il 16, se si era trattenuto a fare precedere te, con tutto quello che mi ho bevuto, dice la voglia proprio di trattenermi di voi, hai traccia a terra. E gli ho detto, l'ho fatto la madre, intanto tu sei piccolino. Siamo rimasti a casa e va bene così. scusate, mi sono coricato, sino alle 5 e poi devo tornare a casa. Domani si riprende a lavorare, perciò senza riposo, a testa bassa e si lavora come i negri. Va bene lo stesso, l'importante è che ci sia l'umore per poter fare tutto. Pazienza, l'uomo è nato per lavorare e per soffrire, è vero qualche? Si conferma qua. Purtroppo siamo nati per soffrire, più che altro. Saluto a Cassandrino, controcambiata la pantacca sulla spalla. Tutto bene, E tu, Sandri, che ci racconti di bello? Perché? Ma cosa vuoi che ti racconti? Niente, mi adesso siamo alle prese che stiamo incominciando il memorial. In questi giorni eravamo impegnati, a preparare il campo, siccome abbiamo fatto portare della sabbia, questa sabbia per Beach World, una poca sabbia, in effetti otto camion da 20 metri cubi, quindi un po' di sabbia tutto lì. Meno male che è venuto la porta, poi cominciamo a mettere sponde, a mettere cose, insomma, un po' di lavoraccio, ma comunque con l'aiuto dei ragazzi abbiamo già attivato, poi messo la rete, adesso domani faremo gli ultimi ritocchi, domani sera 6:30, 7:00 cominciamo, ci sarà l'inaugurazione del memorial e poi rincominciamo. Ci sono 15 squadre di grandi che partecipano e poi ci sono 6 squadre di bambini, dei ragazzini che fanno le loro partite, poi i primi classificati ci saranno le targhe, coppe e l'ultimo ci sarà offerta anche la scena. Tutto ciò è da parte degli sponsor, che abbiamo avuto una sessantina di sponsor, ce ne sono altri, però questioni di locandina, questioni di cose, non ci stavano. E questo è un grazie immenso, agli sponsor che hanno voluto partecipare a questa memoria. Io ti parlo soltanto di persone di produttore e sponsor, come vari negozi a Polopores, vari amici che si sono proposti, dove per dire a Gianluca lo conoscevano. Ma dall'altra parte, Claudio mio, zero di zero. Sai cosa vuol dire Claudio? Zero di zero? L'importante è che sia andato tutto bene, che vi siate divertiti e che si sia ricordato quello che c'era da ricordare. Tutto qua, altro non ti dico niente. L'importante è quello. So che è andato tutto bene, c'è anche mio fratello Polottore Sigiri qui. Lui domani mi telefonerà e mi dirà. L'importante sia andato tutto bene, io ti ripeto, dovevo scendere, invece mio moglie non stava bene, allora siamo rimasti a casa. Se no sarei sceso anche io. Magari sarei rientrato presto perché dovevo lavorare, però almeno la presenza comunque. Già ci vediamo, non ci sono problemi. Ok, cos'è? Qual è la luce? Vabbè, spegni, non ci sono problemi. Ogni tanto mi dimentico di spegnere luce anche io. Va bene, avanti, perché? Sì, adesso volevo proprio approfittarne che c'era Sandrino, ma quella rapina che hanno fatto, cioè con lo svuotamento della cassa lì alla LD di Porto Torres, si è saputo qualcosa, Sandri? C'era nei giornali oggi. Guarda, ok, questa mia è nuova, guarda, non ho non sapevo niente. Quello che è successo? Successo tra il giovedì e il venerdì, hanno svuotato la cassa delle LD, non so, il supermercato lì a Porto Torres, e c'era oggi nel giornale. E non si sa perché non c'è stato né scasso né niente, ancora stanno indagando i carabinieri, diciamo. Ho capito. Quindi senza scasso. Ma è successo di giorno o di notte? No, proprio di giorno. A pieno giorno, senza scasso. Questo è un bel punto di domanda, Sì, quello senz'altro è un bel punto di domanda, KK, e che orecchie intenda. Sì, perché diciamo adesso, vabbè, al giorno d'oggi ce ne sono di tutti i colori, perché però diciamo chi viene a fare un'azione del genere sa benissimo che hai i secondi contati, quindi diciamo che si munisce, va, picchia e va via, quindi se fa scasso diciamo a parte i dubbi, a parte cose, ma comunque bisogna vedere un attimino, al giorno d'oggi diciamo senza scasso non sono diciamo una semplice cassa di un supermercato, ma addirittura anche una cassaforte, volendo, per dire, oggi è uno scherzo. No, già hanno prelevato poco, 12.000 euro, non è questa grande cifra, ma comunque 12.000 euro sono sempre. 12.000 euro, insomma, non è un granché 12.000 euro, però insomma, almeno per le figlie di fare va bene. E si conferma. Vai Claudio, no, questo era giusto un punto interrogativo di quello che ho letto nei giornali oggi, ma comunque è un bel punto di domanda. Vai Claudio. Ehi, è positivo. Ehi, come ha detto Sandro, già è un bel gruzzoletto per le vacanze estive, secondo chi sono, già va bene, è un bel gruzzoletto per le vacanze estive. Purtroppo anche lì la malavita è quella, non si buffoneggia, capito Anto? La malavita è quella, non si scherza, vabbè, pazienza. Pazienza, comunque. Già, prima o poi già li trovano, vedrai. Intanto, per me quella gente è gente del posto che sapeva che c'era l'incasso, perché diversamente non può essere, non so. Sì, vabbè, Claudio, già, diciamo, c'è un bel punto di domanda, perché, diciamo, senza lo scasso, diciamo che è un gran punto di domanda. Ci fosse lo scasso, vabbè, tanto quanto. Ma se lo diciamo senza uno scasso è come che tu per dire lasci la macchina chiusa, arrivi e non trovi ciò che hai lasciato dentro la macchina, quindi incominci diciamo a maciurarti un po' la testa, oppure ti rubano la macchina senza scassare, per dire alla portiera aspettate un altro e poi ti portano via la macchina. Cioè, al giorno d'oggi le tecniche diciamo sono moltissime. Oggi considera che con un'impronta o basta un singolo cappello, un pelo, oggi si risale tranquillamente al DNA. Noi, come sapete, noi abbiamo un DNA, diciamo un gruppo sanguigno, un DNA, quindi al giorno d'oggi guarda, c'è poco da scappare. Ma infatti, sai, Va bene. E vuol dire che è andata bene, campagna. Niente. E così, purtroppo c'è la delinquenza, ci sarà, e non è così. Purtroppo si vive anche di quello, si vive anche di quello. Che è uno dei tanti mestieri, perché io lo considero un mestiere, è uno dei tanti vecchi mestieri, diciamo, in questo mondo. Quindi, diciamo, c'è chi si occupa soltanto di quel lavoro lì, e c'è per dire che non è neanche capace a fare quel lavoro lì, quindi lo considero sempre un vecchio mestiere. Si conferma. Si può dire anche che chi lo sa fare, chi lo fa bene, bene, purtroppo scendo, se ci vado io a farlo, no, saranno molto a trovarmi, questo è poco ma sicuro, e aspettare, vabbè, se lo sanno fare, buon per loro. Porto Torres, o Sadri. Non seguito l'ultimo pezzo. Gli ho detto com'era il mare oggi lì a Porto Torres, il mare. Oggi particolarmente un po' incavolato, non tanto, ma insomma un po' di risata c'era. Considera che è cominciato già da ieri pomeriggio, ieri sera non tanto, ma è cominciato a sollevarsi il vento. Infatti di solito mi sono accorto quando le navi non entrano nel porto nuovo, causa vento, adesso non lo so se sia per il vento o per che cosa sia, questo ancora non l'ho capito, le navi attaccano lì al nuovo industriale, ma non tutto questo va nel vento, diciamo, eppure il porto, diciamo, porto nuovo. Mi ricordo, mi sembra che avevano anche, c'era anche la draga dove aveva sfondato sotto per passare, diciamo, il livello. Questo discorso che quando c'è il vento, diciamo, e così via, non entrava in porto nuovo, questo, diciamo, non ho mai capito il motivo, ma sarà per questione di sicurezza, non lo so. Oggi diciamo che c'era un po' di risata, un po' di coso. La sera sembra che abbia calmato un po' il vento, però per i giorni, adesso per domani e così via, diciamo che ha messo un po' di rinforzo. Caffagatto. C'era qualcuno sottofondo che voleva entrare, non so se volesse entrare o stava solo modulando. Lo passavo alla grande, Sandro, senza problemi. Vai, Claudio. No, è giusto per sapere com'era il mare più o meno. Per il vento che c'era qua, guarda, si poteva solo immaginare che il mare era agitato, eh. Ok, vai, Claudio. Aia, positivo. No, io non sento nessuno perché Sandro qua è una fucilata. 9:15. Con picchi positivi, quindi se il segnale non è oltre 9:15 non ne vale nulla. Non so se era qualcuno che voleva entrare, c'è qualcuno che vuole entrare già 10. Maraviglio. No, era più forte prima, però Sandrino non copriva la grande. Ha detto qualcosa, non ho decifrato bene cosa ha detto, ma comunque, non fa niente, già lo passava Sandrino, non c'era problema. Ma ce la futti. Se vuole entrare, siamo qua, non c'è un problema. Canale aperto a tutti, non è il nostro. Avanti Sandro, riprendi. Go. Stavo provando un attimino in FM, soltanto che c'eri tu che mi stavi modulando, quindi stavo pensando che non sia stato magari qualcuno in FM. Ascolta, Claudio, siccome sento un po' bassino Antonio, proviamo a passare un attimino in FM. Io con questa non ho FM, questa è una KB23, portami più tra la tavola, c'è appena la M. Per passare in FM devo accendere quella grande, capito? C'è un break avanti. Ben sentito anche Antonio e Alessandro, Antonio Brodea da questa parte. Ciao Antonio, buonasera, ben ascoltato. Sandy, rimaniamo qua, già lo senti a Forchetto, se non sei troppo QRM, guarda un altro canale dove non c'è molto QRM, dall'1 al 23, e ci spostiamo un altro canale, non ha detto dobbiamo rimanere qua su 10, no? Non c'è scritto nessuna parte. Guarda a vedere, dai, se c'è qualche canale dove c'è meno QRM, Sandro, riprendi il Forchetto. Ehi, ciao Antonio Grode, ben entrato, ben ascoltato, ma sì, BM. Cattivo, perché come mi stai ascoltando? Ma un po' bassino ti sento, rispetto alle altre volte. Timino, guarda così se migliora il segnale, 1-2-3, 1-2-3, 1-2-3. Sì, adesso siamo entrato, va bene. Visto, c'ho un po' di stazionari, Ah, stazionari c'hai, allora è per quello. No, comunque è abbastanza comprensiva la modulazione, tutto Roger. ma forse ero un po' basso del radio, perché guarda, se attacco un po' la scarpettina forse mi senti male, perché c'ho un stazionario. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Sì, in effetti ha ragione. Guarda, se ti ascolta Sandro, produttore 600, tu mi dici se sei in un'altra postazione, perché la radio non è la stessa, se stai usando un'altra radio. Sandro, lo senti a Antonio? Non è Sandro? Momenti, lo sento, però momenti, no, perché mentre c'è una modulazione si accavano il QRM. Non lo so, vediamo un attimino. Ma ben sentito, ben ascoltato Sandro. Ma io sento Sandro che leggermente sembra strana la modulazione, la radio, No, io lo sento bene Sandro. Meglio di così non si può uscire. Aspetta che forse sto sbagliando io, sono in una banda di questo baracchino, perché ogni volta che spegni e riaccendi ti sposta in banda, un attimo. Controlla, non sei tu. Io Sandro lo sento bene. Tu lo senti bene, Anto? Sì, no, io tutto rogere al 100%. Niente di strano, dei problemi saranno di rode, perché io lo sento bene a Sandro. Vai Sandro. Ok. Soltanto che ci sono queste, c'è una questione di QRM, diciamo così via. No, non è che abbi tutto questo grande. Questo grande QRM, perché il QRM ce l'ho 5 o 6, soltanto che dietro le modulazioni un attimino si accavalla tutto lì. Buongiorno, ero io in banda tedesca, per quello che si differisce di qualche hertz rispetto a quella italiana. Esatto. No, mi sta arrivando fortissimo Sandro. Non so tu quanto lo senti, ma qua è 9,15, non più che positivi. Sembra quasi, nonostante stia usando l'HB23, baracchino, un piccolino 23 canali, con il microfono sempre da tavolo, nel tavolo più 3. Anche questo già si fa ascoltare la radio. Non ci stanno problemi, solo c'è solo la M per passare l'FM e accendere quello grande. Visto ora, ancora qualche decina di minuti, poi ce ne andiamo a nanna e domani ci attiamo presto, e quindi non è che possiamo stare sino a tardi a modulare. Ok, avanti Falchetto. Sì, positivo, anch'io non è che mi trattengo più di tanto, che domani devo trabaccare, e mi sa che vi saluto, mi approfitto a salutarvi. Io me ne vado in QRT, dai, perché se no domani manco a luce. Io vi saluto, ciao Claudia, ciao Grolli, ciao Sandro da Porto Torres. Falchetto, vi auguro un buon 144 quando lo fate, e ci si riascolta tutte le migliori alle prossime. Claudia, noi ci aggiorniamo domani, dai. Ciao a tutti, buonanotte a tutti. Dai, riprendo io. Ciao Anto, sì, ci aggiorniamo domani, vi facciamo un salto da Gravino. Ci sentiamo domani quando rientro al lavoro. Ti chiamo e vediamo un pochino com'è la situazione. D'accordo, tranquillo, buonanotte. A domani. Ok, avanti Sandro. Sandro. Antonello. No, vediamo un attimino, vediamo un attimino. Antonello, se mi ascolti, dove sei? ti saluto, allora ne approfitto e devo chiudere. Ok, ciao Carlo, alle prossime. Saluto Antonio Carlo, che sei ancora qua sul canale. Ben sentito, ben ascoltato, ci sentiamo alle prossime. Ne approfitto anche per salutare Falchetto che è andato in QRT in 144, dai, riprendi i clavi. Guarda quanto lo dici, quale? Ma non lo so che parlavo, senza anteneri. Ma io sono sempre a casa. Allora non eri tu quello che stavo parlando con la macchina? No, infatti mi stavo ascoltando, ho acceso. Però io se sei un bravo modello. Diciamo di sì, dai. Infatti stasera stavo cercando, comunque buonasera a tutti che c'è in ruota. Ma secondo te, chiedo l'informazione che tu sei in capo della situazione. Fatto sta, per la legge delle telecomunicazioni, la direttiva è consentita per la 27 oppure no? Antone, non ho capito di cosa stai parlando, intanto ciao, buonasera. Non ho capito di cosa stai parlando. Direttiva di che cosa? La direttiva per la 27 MHz, per la legge nelle telecomunicazioni, è consentita oppure no? Perché così stavo leggendo in un giornale che molte cose sono cambiate e volevo chiedere se eri informato su questo discorso. Sarà consentita poter piazzare una direttiva per la 27? No, in modo più assoluto. La normativa parla di antenna addirittura un quarto onda. La nuova normativa varata a gennaio 2011 addirittura parla di antenna un quarto onda, non più 5 ottavi. Però siccome tutti stiamo usando le 5 ottavi, abbiamo le 5 ottavi, io non sono assolutamente disposto e d'accordo a togliere le 5 ottavi per mettere un quarto onda. Quando qualcuno ci dirà qualcosa ne parleremo di questo, però io per il momento lascio l'antenna che ho poi. Io ho addirittura stampato proprio il nuovo statuto perché a noi ci aggiornano sempre come sezione e quindi ho stampato addirittura, anzi mi hanno stampato la nuova normativa proprio per la 27 e parla di antenna un quarto d'onda. Era già approvata, oddio, un emendamento è stato fatto per l'approvazione, io non ho letto nessuna quarta e quindi quando ci sarà nella gazzetta ufficiale l'approvazione allora di questa nuova legge del Ministero delle Telecomunicazioni, allora toglierò l'antenna a 5 ottavi e metterò quella a un quarto d'onda, che poi alla fin fine a me non mi cambia niente perché io non devo assolutamente sostituire niente. Io ho patente radioamatore, uso le antenne 5 ottavi, quindi quella è dichiarata da me per iscritto su licenza e autorizzazione ministeriale che io quella antenna 5 ottavi la uso in 10 metri, cioè quella che sto usando qua. Quindi per i 10 metri, i 28 MHz così chiamati, sono consentite le antenne 5 ottavi, pertanto io non tolgo assolutamente niente. Per chi ha solo la licenza del baracchino si vedrà, queste sono cose che si vedranno e si aggiorneranno man mano che il Ministero delle Telecomunicazioni manderà i decreti ufficiali e quindi sarà i preposti a fare queste cose. Andiamo bene, sempre con le mani legate, va, ti lasciano in condizioni di non poter comunicare, ma proprio in condizioni limitate, che non mi sembra neanche giusto. Comunque fatto sta, quello che c'è io, un mezzo dovrebbe andare bene con l'antenna. Ma tu cos'è, mezz'onda? È mezz'onda, sì. Sì, adesso non ci preoccupiamo di questa stronzata, Antone. Quando, ti ripeto, ci sarà qualcosa di ufficiale, io sarò uno dei primi a essere informato, quindi quando informeranno a me, io già sono qua, informerò anche a voi o vi darò il numero della gazzetta ufficiale. Per il momento, ti ripeto, di iscritto non c'è niente, ufficialmente c'è. assolutamente nessuna antenna. Poi per gli altri si vedrà quando ci sarà qualcosa per iscritto. Vai Anto. Un attimo, Clavola. Se non usiamo le ciclopapi io uso il filo da pendolo. Che è anche meglio secondo me della ciclottavia di San Lì. Scusa, qual è il problema? Vediamo Antonio in Ossilandia, vi ascolti Anto? Eia, un Santiago di 7 e una radio di 4, abbastanza comprensibile, un po' rapa, ti sento, comunque comprensibile. Ecco, qual è il problema? L'importante è farsi sentire. Beh, stai usando un filo elettrico. Lo utilizzo con antenna. Ecco, mentre moduli con picchi positivi, attenzione. Vabbè, ma sì, diciamo, sarà diciamo tutto a questo grande, ma l'importante è farti dire. Sì, sempre a Porto Torres, sì? Sempre a Porto Torres. È bella storia, anche se non pensando a costruirmene una, qualcosa di carina, va. Qualcosa fatto da me con le mie mani, con le mie manine, da qualcuno mi ha ispirato e dunque volevo anche creare qualcosa, va, che dà sempre delle belle soddisfazioni. Allora, come che c'è uno sessere che li fa belli come quello che c'è sangue di Puglia. Ah. E chi è questo? Non sono sangue di loro. Andro, chi è che li fa? Vabbè, è un vecchio amico. Un vecchio amico si chiama Claudio Sparviera, non so se lo conosci. Sì, l'ho sentito così, dicono che è bravo, solo che purtroppo è sempre impegnato e a quanto mi hanno detto, diciamo, potrebbe fare il maestro, ma non ne ha voglia, capito? A insegnare, ecco, tutto lì. Per il maestro, ma quella è una cosa che ho fatto, adesso mi ricordo quanti anni fa, ce l'avevo sempre dentro l'armadio, poi l'avevo montato via a Pascoli quando praticamente mi sono trasferito momentaneamente, oddio, la cosa è diventata momentanea dopo perché mi stavano stufando, la casa non era come volevo io, e quindi avevo montato quel diporno, poi avevo montato l'antenna sopra e poi alla fine mi sono deciso di tornare qua. Già un buon segnale, come adesso se uno può fare qualche miglioria con qualche tecnica in matematica, sai, cercare un po' di migliorare, c'è una buonissima antenna, penso che viaggi tranquillamente da tutte le parti, e alla fin fine ci sono sempre soluzioni, vorrei imparare anch'io a farla, comunque se vuoi aprire la scuola io sono il primo a venire, comunque aspetta un attimo. Ma Claudio, aspetta un attimino, considera che adesso sono con 5 razza, Ok, ma guarda dei picchi positivi perché qui adesso mi fanno dei picchi allucinanti. Allora, Claudio e Antonello, adesso sono esattamente con 2 watt. Radio di 3 senza modulare. Quando parli arriva Santiago 7 e radio 5. Per me sì, è allucinante perché sei passato da 9 e 5 a 8 e quando moduli te ne vai a 9 lo stesso. Grotte, tu ascolti a Sandro con di po'. Sto aspettando un attimino io. Cosa stai? Buonasera Grobbe. Aspettando un attimino. Sparviero, com'è questa modulazione? Bene va quello che ho adesso. Bella Antone, non ci sono problemi. Bella corposa, non ci sono problemi. È perfetto, perché a volte, vabbè, sicuramente se si aumenta così è troppo accentuato, vero? Ma te sto ricevendo col maracchino. tutti bene lì, sì? Capo Antonetti, come diciamo, ti ascolto, riesco a tirarti fuori. Vi segnalo logicamente, vi ascolto sia te che Claudio, vi ascolto a pazzi, eh? Allora, a te Antonello ti ascolto con un Santiago C, picchi, leggeri picchi a 6, invece a Claudio l'ascolto con Santiago di 6 a picchi di 7-8, considera che come ricezione è sorda, quindi non è la ricezione come in antenna. Allora, ascolta un attimo. Ok, ascolta che devo accordare, perché qua... accordatore qua non faccio niente. Ok, adesso sono passato a 10 watt. Com'è Claudio? Sono 9 cifre, picchi positivi a 9-10, faccia allucinata con il povo veramente. Sì, quasi 9 più 10, quasi 9 più 10 al picco massimo modulazione. Considera che con l'antenna grande arriva 9 più 15. Ok. Vediamo un po' se riesco sempre a accordare, vedo se posso darvi ancora qualcosa in più. Aspetta. Allora, 20 watt. Di più non mi fa accordare. 9-10, Sandro. C'è entrare, sì. Ti ho detto io avanti, ma ti aspetta. Ho detto che stavo aspettando un attimino, ma avete detto aspettare un attimino, mi sono messo ad aspettare. Io riprendi. Di Roger, esce davvero bene con quel dipolo, eh. Assolutamente, secondo me vanno venduti. Ci mettiamo, lo facciamo uguale a quello, ci vuole, io penso mezz'ora ed è pronta l'antenna, mezz'ora, tutto RG58, ce l'ho io, tutto, ci spero, a parte l'altra si congiungono la calza, il polo caldo ad un PL a pannello e si chiude dentro una scatoletta di plastica e si fa uscire, tu non fai altro che stenderlo e attaccare il PL, fatto. Balon non emetti? Sì, balon centrale col PL quello a pannello, in modo che si salda il polo caldo e la calza, non so se li hai mai visti qui il PL a pannello, poi si isola dentro con silicone e si mette il balon a scendere, guardato, e tu si apposta, c'è il polo, è quello che c'ha Sandro, non è quello lungo, da 2,75 per braccio, quello è 1,75 per braccio, quindi quello è un quarto ronda. Ma non come va calcolato, è quello che mi manca, perché io li ho sempre fatti col filo elettrico da 2,5, sicuramente inferiore a quello, ma il balon, cioè che cos'è tecnicamente? Balon è rapportato alla distanza che tu fai in braccio dell'antenna, ok, quindi in quel caso lì tu che cosa fai? Le misure le conosci, no? Dividi i due bracci, quindi uno, cioè moltiplichi i due bracci, 1,75 per 1,75 per il centrale che praticamente è sempre diviso 3,6, no? Aspetta, perché io ho misure diverse. Allora, io il dipolo lo calcolavo così. E cioè lo calcolavo, aspetta che stacco questa cosa, se non mi si frigge, lo calcolavo così, prendendo 300.000, dividendolo per 27 e dopodiché dividendolo per 4 ottenevo un braccio, uno dei due bracci, cioè il polo caldo e il polo freddo. Però quindi usciva 2,75 circa, 2,70 dai. Quello 2,75 per braccio, non 2,70, 2,75 per braccio è già mezz'onda. Mentre un quarto onda è 1,75 e 1,75, quindi non devi fare la stessa cosa, però devi calcolarti a 1,75, non a 2,75. Esatto, e dopodiché il balon che cos'è? Perché io non l'ho mai capito, l'ho sempre visto nei codici, cioè è tipo un tubicino in ferro, che cos'è? Quello ti simmetrizza, praticamente fa la simmetria del trattore. Cosa vuol dire? Che simmetrizza i due bracci dell'antenna riportato a praticamente la distanza dove tu punti il dipolo, sei il dipolo direttivo. Quindi se tu non hai il balum rapportato praticamente ai gradi che tu metti l'antenna, avrai sempre stazionarie. Ma adesso ti chiedo, come va calcolato e dove va messo? Le centrali a tu, non ce n'è calcolo per il balum, è sempre centrale, è rapportato alla distanza che tu hai praticamente del calcolo, che trova il calcolo stesso, perché il balum è quello centrale che tu vedi praticamente nei dipoli, che è il simmetrizzatore dell'antenna. Quello simmetrizza due bracci, cioè praticamente ti dà la distanza unica dei bracci dove tu stai girando l'antenna. Se l'antenna è a 45 gradi, quello praticamente ti rapporta i bracci, perché è calcolato per tenere i bracci a distanza che tu li metti, perché senza di quello col vento ti disposta e quindi non hai più il calcolo di 45 gradi, 30 gradi, inclinazione. Così, adesso ho capito. E la lunghezza del balum in base sempre all'angolo che stai dando all'antenna. Esatto. Se tu per esempio come sono i condensatori, no? I condensatori lavorano a picco fara, quindi se tu hai un amplificatore lineare con 4 valvole, non puoi mettere un condensatore da 100 picco fara, glielo metterai da 300, e così si mette da attorno la stessa cosa, in base alla lunghezza del braccio dell'antenna, perché il braccio più lungo è e chiaramente più resistenza c'ha, anche di potenza, più corto è. Se tu c'hai un dipolo da un quarto d'onda, gli dovrai dare 100 watt, 150 watt, non di più. Se ce l'hai 5 ottavi già sopporta i 300 watt. Quello gli serve proprio per dare la potenza giusta al dipolo. Non ce l'ho capito. Ascolta, è solo con l'RG8, non si può fare? Con l'RG8 è troppo grosso per i dipoli, ci va l'RG58, massimo l'RG59. Io i dipoli che ho sono tutti RG58, e io ne ho uno che tiene 3 kW, però è lungo 27 metri. Sì, ma poi ti ripeto, realmente sono le antenne che costano di meno, perché se lo fai piccolino, questi da 1,70 o anche da 2,75 di mezz'onda, se ti viene a costare 5 euro è anche troppo, capito? Un attimo, Claudio, però c'è da considerare anche un'altra cosa. Considera che io l'ho messo, diciamo, la scatoletta dove arriva il polo caldo e polo freddo, che poi c'è il collettore, diciamo, della pancia del cavo, considera che l'ho messo, attaccato al tubo, diciamo, dalla mantova, a circa 4 metri lì dal tetto, messo, diciamo, a V sui tiranti, diciamo, dell'antenna, e da terra, diciamo, circa 2 metri. Molto importante è che non ci siano tubi o antenne in giro. Non ci deve essere niente. Quando il dipolo sta lavorando, tu le dai i suoi gradi, le dai la sua posizione, perché il dipolo è una direttiva, quindi lo punti a nord, lo punti a nord-est, sud-est, eccetera. Non deve avere niente davanti, perché qualsiasi cosa davanti può influire nell'inclinazione dei bracci, quindi puoi avere un rientro di RF, puoi avere tante cose, e poi non irradia. Quindi più in alto è e meglio lavora, oppure più in basso è, però non deve avere niente davanti, un buon piano di massa, quindi un tetto come c'ho io, che è tutto rivestito in alluminio. Io ho un dipolo a 27 metri, è una bestia, ed è un quadro in banda, e tiene 3 kW, l'ho fatto tutto con RG58, tutto, è una cosa spettacolare. E poi c'ha tutti i bracci, c'ha 4 bracci praticamente verticali, è una direttiva proprio, una direttiva filare, che fa i 10, 15, 20, 40 metri, e sto girando il mondo, anzi, ho girato il mondo, perché in questo periodo sono molto fermo. Antonè, ho reso l'idea, hai capito? scrivo parola per parola, anzi prendo il telefonino e ti registro, e poi guardo come fanno a voglio costruire. Un'altra soluzione non c'è, anzi faccio una cosa più bella, porto la telecamera e mi fai vedere come si fa. Logicamente tutti sbaventi, ti complichi, ma è semplicissimo, molto semplicissimo. Però Claudio, c'è un piccolo accorgimento molto importante, perché a me inizialmente mi ha fatto impazzire. Gli ho fatto un piccolo accorgimento sulla scatoletta, e quando gli ho fatto quell'accorgimento sulla scatoletta mi ha eliminato anche molto il stazionario, perché inizialmente due o tre di stazionario. Adesso io sto usando l'accordatore, logicamente, perché sono NSI, un'SETI di stazionarie, non sono neanche tante. Perché allora, quell'accorgimento ha abbassato molto la moto del stazionario. Come tu hai detto il tuo silicone? No, caro, non ha tolto niente, il silicone non ha tolto niente. Tu considera che alla base del collettore, dove inizi il piello del capo, lì ho fatto un accorgimento. E era doppio in fuori? Negativo, caro. Adesso ve lo dico, vai. Ho preso una piastra da, mi sembra che siano, sui 40 cm per 40, gli ho fatto una placca saldata per l'aggancio sul palo, fatto il foro giusto del collettore e attaccato al piello, e quello è il piano di massa. Esatto, hai fatto una cosa buona. Vedrai che con quello non ti fischia nessun microfono, si può fare anche così. Perché c'è la lettina, il piede da pannello, quindi lì o le saldi un giallo verde e te lo porti sul tubo dove lo stai agganciando, oppure le fai una piastra come hai fatto tu. Come hai fatto tu. Antonè, è una stronzata, ti ho detto, quando vuoi vieni qua e lo faccio, lo fai davanti a me. Io ti do le misure, tu ti metti e lo fai. È una stronzata, è come saldare un PL. Devi avere solo le misure. Tu prendi due pezzi di RG58, li tagli a 1,78, misura giusta col metro, ok? come la tecnica della situazione. Io qui mi sei seduto un Regi 58 e il cavo che sto usando io, quello fine alla fine, giusto? Esatto, il semplice Regi 58, Antonio, semplice Regi 58. Usiamo quello perché c'ha la casa interna schermata e quindi riporre la resa superiore. Se tu lo fai con filo da 2 mm, da 2,5, da 3, già è una cosa che può andare bene, però è quello che c'è dentro è un filo che non va bene per riporre. Mentre invece i due bracci con le Regi 58 che hanno calza e centrale hanno una migliore resa, tutti i dipoli vanno fatti così. Tu non compri un dipolo di quelli che vendono dell'Ecotene, dell'Ecosystem, dell'Eco, tutti i dipoli che vendono li vendono con un cavo con la calza interna, con un cavo schermato. Capito, poi non ne ho a casa la verità, ne ho, io posso fare così. Se domenica mattina, domenica prossima mattina, non hai 5 minuti o mezz'ora come dici tu, io porto il cavo e mi fai vedere, se non mi servono gli altri pezzi, dove li posso trovare? Quegli altri pezzi che servono per fare tutto il lavoro, oltre al cavo. La GMC, la Fusaro, la Minchione, da tutte le parti, Antonio, da tutte le parti sono semplici. Tu le dici, mi serve un PL 219 per pannello, quindi lo vedi, è un PL, l'attacco che c'è dietro il baracchino è me, quello lì è, hai capito? Il PL femmina, perché il maschio glielo metti dentro e lo metti, la femmina uguale a quella deve essere. Ah, perfetto, ok, devo avere uno di quelli, il maschio e la femmina devo prendere, basta, e poi il Regi 58 che ce l'ho, punto. Sì. Io qualcuno gliel'ho fatto, non mi uscivano così, però conviene prendere però come femmina quella che c'ha la base quadrata, non come quella che c'è sul baracchino, quella che c'ha la base quadrata, perché in modo tale che già il polo freddo glielo puoi saldare dove ci dovrebbero andare le viti. E ti stavo chiedendo, ma secondo te utilizzando invece i cavi dei pannelli solari, del fotovoltaico, quelli che sono da 6 o da 8 non vanno bene? No, tu, ci ho provato anch'io una volta, perché anche noi abbiamo quei cavi da 3,5, da 4 mm quadri e non mi convince, io li provo bene con il Regi 58, sempre con quello conviene farlo, perché ti ripeto, sono cavi schermati, colorati soprattutto, e vanno bene quelli, io sempre con quelli l'ho fatti. Sì, quello quadrato, sì, che poi se tu guardi nel baracchino, quello non è attaccato così, se tu apri il baracchino, quello lì c'è al foro, esce l'attacco che tu le entri, PL lo avviti, ma all'interno c'è la piattina quadrata dove ci sono le vitine per mantenerlo, perlomeno la radio che io sono così. Quindi un PL o da pannello o un PL, glielo dici, di quelli che hanno l'attacco quadrato, un PL da pannello si chiama, noi lo chiamiamo sempre così, che hanno già la piastrina attaccata col connettore proprio che il centrale che si salda, ma a me pare che c'ho anche io uno qua, non c'è problema, quindi lo possiamo fare sul posto, non c'è nessuna difficoltà. E allora domenica prossima mattina impegni hai, ti posso disturbare? Ma io lavoro anche la domenica adesso, però mi sto liberando presto, alle 9:30-10 sono già a casa perché col presto mi faccio i controlli e poi come stamattina alle 10:15 ero già, sono sceso da Luigi a trovarlo e sono rimasto lì sino a luna, quindi non ci sono problemi, ci aggiorniamo a fine settimana e ci mettiamo d'accordo, magari se c'è anche Antonio ci vediamo tutte e tre e ne facciamo due, in 10 minuti ne facciamo due. Io ne vado bene. Una stronzata, una stronzata. Ti sto dicendo, in 10 minuti se abbiamo il cavo e i connettori, in 10 minuti, a quanto state a spellare i fili, ho già saldato il polo caldo, il polo freddo e il polo fatto. Poi si piazza, si accorre e dove si appoggia. Ascolta, togliami una curiosità, ma questi cavi rimangono a pendoloni oppure ci vuole qualcosa per tenerli in verticale? Non sempre in polarizzazione orizzontale, capito? Sempre a polarizzazione orizzontale, perché perlomeno io sono in alto, lavorano meglio, non li ho mai messi in verticale, però si può anche provare, si accorda e si prova. In verticale, ti ripeto, puoi mettere un tubo, non in ferro, ricordatelo sempre, in PVC, di quelle canalette grosse, da un pollice, ma da un pollice a tre quarti, insomma che lo tenga fermo, bene, ok? Oppure puoi fare la polarizzazione orizzontale, che è quella dove ci vanno gli isolatori, quindi sono due pezzi di tubo sempre di quello forati, si entra il cavo dentro, si fascetta e si fa uscire un pezzettino di nylon che va attaccato da una parte all'altra come un tirante, la stessa cosa. Ho capito, perfetto. Ti volevo dire, poi alla fine, dopo che fa tutto questo lavoro e la collega l'apparato, ecco, tra questo bipolo e l'apparato, la lunghezza del cavo, anche quella lì deve essere calcolata, deve partire sempre 11 metri e così via, 11-22. Sono stronzate quelle, sono stronzate, non ho mai rispettato cavi di discesa, ma io in questo momento ho 55 metri di cavo di discesa all'interno del radio, io 55 metri, non ho mai rispettato, non ho stazionari, non ho rientri di RF, non ho niente, mai, non ho mai rispettato cavi di discesa, mai, non me ne è mai fregato niente, non mi ha mai dato nessun problema, Antonio. Ah, perfetto, dunque quello che lo utilizzo è proprio, ma no, perché diciamo, allora sto modulando io tra la mia stanza, la finestra, c'è il terrazzo, posso benissimo anche averne anche 5 metri e ne dovrei avere un bel po' di questo cavo, sì, cioè il cavo sia per lavorare, per fare il lavoro sia per collegare, dunque non rispetto anch'io, dove arriva il cavo, quello vedo quella la distanza che mi serve, tagli e ci proviamo. Va bene, perfetto, voglio vedere un po' cosa esce fuori. Ciao Claudio, ciao Antonello, ciao Antonio Claudio, buon ritiro a parte mia. Ben sentito, ben ascoltato, buon 144 e alle prossime, dai. Via, ciao, buonanotte. Ciao Sandro, buonanotte, saluti a casa, domani ci siamo, quindi questo è il rapporto da 1 a 100, non ci sono problemi, è una grandissima stronzata quello che ha Sandro, è fatto in una maniera diversa, perché praticamente avevo messo anche l'isolatore, il PL praticamente all'interno di una scatola, esce solo come esce dal baracchino, e all'interno è tutto stagno, capito? E quindi non entra acqua, niente, si può fare anche così. E se no, di solito noi vulcanizzavamo tutto, si vulcanizza una volta che hai saldato il polo caldo e il polo freddo e hai la discesa principale, si vulcanizzava tutto per bene e poi si nastrava tutto. Però, ripeto, si prendono quelle scatolette di prese normali da attaccare al muro, che hanno anche il tappo, si mette dentro, si fa il foro giusto, si fa uscire solo, attacco il PL, i cavi saldati rimangono all'interno, si mette un pochino o di colla calda oppure di silicone, si mette il tappo, un giro di vulcanizzante e li può stare eterno fuori senza nessun problema. Ascolta, comunque con questo tipo diciamo di antenna c'è la possibilità di comunicare quando ti capitano queste EDX anche in bande laterali, diciamo, ti dà questa possibilità di modulazione, sì, oppure c'ha dei limiti come antenna? Il dipolo stesso si chiama dipolo perché ha due polarità di modulazione, quindi o a nord o a sud, secondo dove lo metti, forse poco fa non mi hai capito. Il dipolo è un'antenna direttiva, tu se le dai la direzione per dire a nord, sappi che è un'antenna direttiva, quindi chiunque parla da nord tu lo devi sentire, senza ombra di dubbio. Se la punti a sud sentirai più quelli del sud che quelli del nord, giustamente. Se, siccome quello è un quarto d'onda, chiaramente la ricezione è inferiore a un'onda intera, se poi vuoi fare quello grande, che è lo spazio per fare quello grande, le fai la V invertita, così chiamata, non so se rendo l'idea, ma tu immaginati una V invertita, i bracci a 45 gradi, quindi tra un braccio e l'altro devono starci in 45 gradi. Tu non hai antenne che la possono superare se la punti a nord, puntandola a nord è invertita, però cosa succede? Che l'antenna, essendo puntata a nord e avendo 45 gradi la V invertita, praticamente abbraccia, ti fa un cerchio e quindi ti abbraccia un po' sia a nord, a sud, l'ovest e l'est, capito? Con segnali diversi, però senti tutto. Ho capito, dai, perfetto, e allora facciamo così. Se torna bene domenica mi spiego anche quello, dai, così vedo un po' di ingegnarmi. Antonio, se no volevo mi chiamate maestro, perché maestro non so, la mia esperienza a me mi hanno insegnato a fare queste cose, quindi mi fa piacere anche dirle a voi che praticamente non le avete mai fatte, nessuno ne ha imparato e tutti siamo qua per imparare, per capirci e soprattutto per darci una mano, quindi io non voglio fare maestro a nessuno. Quello che mi hanno insegnato a me io lo metto a disposizione degli altri come ho sempre fatto, perciò non c'è nessun ringraziamento e niente, mi fa piacere fa piacere a voi vedere queste cose e farvele, perché non te ne faccio, lo fai tu davanti a me, in modo che se c'è qualche errore si corregge sul posto, ma è facilissimo da fare, Antonio, non c'è nessun problema. A me l'hanno insegnato anni e anni e anni fa e li facevamo proprio perché allora la possibilità di comprare antenne non ce n'era, quindi prendevamo un pezzo di filo e andavamo, giravamo, insomma, dai. Non è che allora si poteva fare tanto, perché i baracchini erano 23 canali come questo, lineari, chi c'aveva lineari già vuol dire che c'avevamo dei soldi, quindi insomma 40 anni fa si viaggiava anche con i dipoli e dopo lo mettevi noi riuscivamo a sentirci tutti, perciò ancora oggi come oggi la tecnica non è cambiata, perché noi radioattori usiamo molto il filare, l'antenna a filare, e giriamo il mondo con quelle antenne, quindi non credo che da una banda amatoriale a una banda cittadina come la 27 ci siano molte differenze. È sempre questione di farlo bene e puntarlo nel modo giusto e poi problemi non ne hai. Vai Antu. Antu. Ma mi state ascoltando? Perché stavo girando un po' di trimmer per vedere se riuscivo a guadagnare qualcosa. Riuscivo con bacchi incendi questa baracca. E ti stavo dicendo, però io credo che Antonello voglia costruire qualcosa che assomigli più a una antenna. Hai presente l'antenna? Siccome gli avevo fatto vedere, la mia intenzione era quella di costruire un'antenna simile a quella UHF che del primo o del secondo canale, adesso non ricordo, comunque quella più semplice. Quindi tu vuoi costruire una log periodica? Roger, oppure una che si chiama cubica, c'avevo un progettino, siccome ho trovato una quadrella in alluminio che è di 2,50 m, vedere un attimino di ottenere una antenna di un quarto d'onda, facendo la classica graticola che si montava prima per il, cos'era, primo o secondo canale, non mi ricordo. Vabbè, quella è un'antenna multibanda praticamente, multibanda, è come la log periodica, quella che praticamente si assomiglia a un ragno, che parte a punta e poi apre, sino a essere larga, quella si chiama log periodica, ed è una buona antenna anche quella, però della 27 sinceramente io non credo che ci siano i presupposti per poterla costruire, anche perché le misure andrebbero ad essere molto molto grandi, quindi i bracci tu devi calcolare sempre da un quarto d'onda a un'onda intera e cazzo diventa una cosa mastodontica, ci vorrebbero dei tubicini in alluminio, cazzo, da 2,75 l'uno, e dove la metti? Infatti, aspetta, però al pari del coso, che poi altro non è che c'ha sempre due bracci, un polo caldo e un polo freddo, se non sbaglio. E se mi hai detto prima che il dipolo lo puoi fare da 1,75, puoi fare anche questa, è che poi gli devi dare la direttiva, quindi di conseguenza quelli che stanno dietro devono essere 5% più lunghi Sì, il problema è che avrebbe un peso ed una dimensione più che altro quella impegnativa. Beh, hai capito qual è il problema? Cioè tu parti da una misura che se la fai per dire in scala 1 a 100, facendola proprio in miniatura, rispettando le misure in radice quadrata e poi rapportandole a quello che è il rapporto da 1 a 100, vale a dire che tu hai davanti e la puoi fare da 175 mm e alla fine ti verrebbe però sempre un braccio grande per poter dare simmetrizzare quello che hai avanti, perché la direttiva non è che puoi farla tutta una misura, le direttive quelle amatoriali hanno anche i bracci sfasati, per dire se va a 4 elementi può avere un elemento da, quello ti posso dire, da 4 metri e 50 centrale e gli altri sono da 6 metri. Paroger, ma infatti la difficoltà sta in quello. Se no si potrebbe fare una cubica che è composta, se non sbaglio, da due quadrati, che uno è però della dimensione di 10 metri, quindi ogni lato di quadrato sarebbe 2 metri, e l'altro qualcosina di meno, e lo stesso è direttiva. Però bisogna trovare una intelaiatura e una struttura tale che regga il tutto. Quella lì si può fare col cavettino d'acciaio, quindi tubi d'alluminio forati, è praticamente fatto il quadrato al rapportato col cavo d'acciaio, e poi attaccato al cavo d'acciaio ci metti il cavo che tu hai simmetrizzato. Tutto si può fare al tubo, dipende dallo spazio che uno ha. Certo che un dipolo ti rende la vita meno impossibile, perché se tu lo fai piccolo, anche se lo fai 5 ottavi, hai 2,75 m per braccio, hai sempre 5 metri d'antenna, insomma, non è una grande cosa. 6 metri d'antenna quanto è, insomma. Se lo fai un quarto d'onda, come quello che c'è Sandro, hai 1,75 m, una parte 1,75 m all'altra. La cosa già non è così tribola come sembra, insomma, lo puoi mettere anche in un poggiolo, lo puoi mettere legato a qualsiasi parte. Se poi c'hai un terrazzo come c'ho io da 50 metri lungo per 40 largo, allora io ci metto quello che mi piace. Infatti io ho l'antenna, il dipolo direttivo che c'ho io a 4 elementi è praticamente 27 metri lungo. 27 metri il dipolo, se poi consideri i due isolatori da una parte all'altra e 1,50 m di cavo per tirarlo, cavo d'acciaio perché pesa più di 50 kg quel dipolo, cavo d'acciaio tirato da una parte e all'altro se ne va quasi 35 metri. In effetti è impegnativo, essendo le antenne inversamente proporzionali a quella che è l'altezza della frequenza. Più sali di frequenza e più sono piccole, più scendi di frequenza e più sono grandi le cose. Per sempre per quel rapporto, se non sbaglio, che 300.000, che è la velocità della luce, la velocità della luce al secondo, al minuto secondo, è divisa la frequenza e ottieni la lunghezza d'onda, che poi dividi in base al tipo di antenna che vuoi ottenere. Esatto. Vedo che la teoria ce l'hai alla grande, vabbè, sei ancora in fase di studio, quindi giustamente è quello, ma conosci molto bene la legge di Ohm. Bene. E tu immaginati che un dipolo per i 160 metri, per la banda dei 160 metri, che poi una banda cortissima perché va da 1160 a 1180, non è che va molto, capito? Un dipolo per i 160 metri deve avere almeno 80 metri, quindi un dipolo 80 metri, nuda è 80 metri, dove lo metti? C'è gente che lo fa correre per il giardino, per i muri, sopra i muri, da tutte le parti, da un palazzo all'altro, è una cosa mastodontica. Infatti io non ho mai trasmesso in 160 metri perché non ho mai piazzato nessuna antenna, oppure lo puoi mettere verticale. Io per esempio potrei fare un dipolo verticale qua per i 160 metri, lo faccio scorrere lungo la facciata anche dentro il canale dell'acqua, che siamo già a 40 metri, e gli altri 40 li faccio correre mi raccontava anche mio padre che per la ricezione di determinate radio, quando era piccolo, l'antenna stava sul tetto ed era proprio un filo da stendere lungo più di 20 metri. Perché sempre era portato in base alla frequenza lunga, e come hai detto giustamente tu, più scendi e più salgono le misure, più sali e più si accorciano, è tutto lì. Va bene ragazzuoli, mi ha fatto piacere sentirvi. Io durante il giorno sto nel canale 45 a voci, tanto oramai mi ci ha sentito. Poi quando cala la notte torno alla normalità con queste vecchie glorie di baracchini degli anni 70. E mi ci diverto, insomma. L'importante è sentirsi, è importante fare radio, come diceva qualcuno. L'ora è arrivata, sono già quasi le 11:30, quindi io vi saluto, un abbraccio a tutte e due, grazie per le due chiacchiere, saluto anche quelli che sono ascolto, e vado a nanna, mi prendo una cosettina da bere, ce l'ho la secca e poi me la vado a nanna. Ciao Antonello e ciao Antonio. Antonè, canto di Viagra. Grazie dell'invito, allora. Se tutto va bene, a domenica cerco di procurare, diciamo, tutto il materiale, anche per il capo ce l'ho, mi manca solamente il maschio e la femmina, e poi nel caso là ti chiamo, cerco di intracciare un modo o l'altro, va bene, sentiamo le prossime, allora, e buonanotte, là, e grazie della lezione. No, ce ne ringraziamenti Antonetti, ho detto, io metto a disposizione le mie capacità e la mia voglia di fare, basta, non sono maestro di nessuno. Nessuno è nato imparato e a me mi hanno insegnato queste cose, quindi io non ho nessuna difficoltà a dirlo e a parlarne con voi. Siamo qua proprio per questo, per scambiarci idee, chiacchierare e soprattutto andare d'accordo. Ciao Antonio, un abbraccio, buonanotte. Ah, ben sentito, ben ascoltato, grazie per il QSO, buon 144 quando lo farai, ci sentiamo alle prossime, dai. Ciao ciao, buonanotte. Ciao, buonanotte a tutti e due. Cuda. E dimmi tutto. Cioè che stanotte hai fatto le ore piccole, è vero? Sinceramente non riuscivo a chiudere gli occhi, è vero. No, per niente. Avevo sempre la radio accesa, lì stavo leggendo un giornale pensando, e poi verso le 3 qualcosa avevo questo Smith che si muoveva, ma questo sicuramente è lui. Ho chiamato, dimmi, ed era Falchetto, che stava minimo addormentando, non riusciva a prendere sonno, allora abbiamo fatto una chiacchierata e abbiamo tirato sino alle 4:30 io. Sono coricato e alle 7:30 in piedi, no? Non riuscivo a prendere sonno. Ehi, ja, vediamo dai, perfetto, adesso vediamo di questa settimana di risolvere un po' di cose. È così. No, non ci riesco proprio, sto cercando di tirarne, sai, dal niente qualcosa, tutto lì, alla fine è sempre la preoccupazione c'è via. E tu, come l'hai passata la settimana, tutto a posto? Assolutamente sì, assolutamente, tutto a posto e niente in ordine, battagliando e facendo finta di fare e senza fare, capito? Che è la cosa migliore, perché fai credere agli altri che stai facendo e invece non fai. È vero, già si vive in un mondo di illusioni, dunque alla fine non se ne accorge nessuno, vai tranquillo. Basta dare agli altri quello che vogliono, assolutamente, e illudere. Perché sei sbagliato, però alla fine sei costretto, sì, purtroppo è il nuovo modo di vivere, per carità. Niente, mi farebbe piacere se domenica mattina, prossima, andiamo dal maestro e vediamo un po' come la situazione, ce la fai tu? Assolutamente sì, non c'è problema, è un piacere, io prima devo andare a messa, perché sono molto religioso. Ah ecco, e poi mandi a fanculo a tutti, anche quello lì sembra che stia funzionando in questi tempi, sì lo so. No, io invece in chiesa non ci vado perché sono allergico. All'ustia o all'acqua santa? No, alle persone che c'entrano, le persone false. E dicendo che sono falso io. Assolutamente, ma non credo che tu vada in chiesa però. Ah, vedo che mi conosci. Sì, guarda, io sono una persona che vede ma non vede, sente ma non sente, e sono dalla mia parte. Fatto sta che quando tu dici che tu vai in chiesa, non ci vai, tu a me in questo caso non mi illudi. Mi piace, deciso, preciso e circonciso. Cosa vuoi fare? Ho altrettanto meglio, però ho imparato a vivere giorno per giorno e grazie anche all'ignoranza delle persone sono arrivato a ragionare in questo modo, senza andare a scuola, solamente guardando e vedendo un po' come si vive fuori. Che schifo! Dio Grotte te l'ha detto assolutamente, che la scuola ti dà l'istruzione ma non ti dà la cultura. La cultura poi te la fai con la vita assolutamente. O meglio, la cultura è un'elaborazione dell'istruzione che uno può anche non avere. Sì, è solo che io stranamente sto imparando e mi accorgo che è veramente difficile. Invece molte altre persone invece non sono cieche in questo caso. Dunque vivono un'illusione e a me vive nell'illusione. Non mi piace, dunque sono costretto a imparare. Fai bene, e fai bene perché la migliore scuola è la vita, assolutamente. Il problema è che molto spesso conviene determinate esperienze farle teoricamente, perché se le fai in pratica ne puoi uscire anche con le ossa rotte, ma esatto. Sì, purtroppo sì. E via, dai, no, la verità sono più curioso di fare questa piccola sperimentazione, anche se tu ne è costretto sempre ad agire giustamente nelle misure appropriate, ecco. E se mi è piaciuto inventare qualcosa, sai, di più concreto, senza usare questi, qualche posto di bipolo, ecco, solo senso dire che c'era una persona che ha costruito un'antenna grazie a una parabola che veniva usata per Sky, sai, oppure per collegarti ai satelliti della North Bird. Però sinceramente non so come cavolo abbia fatto alla fine. Bisognerebbe avere un apparato comunque sperimentale, cioè un apparato che puoi rischiare, che poi ti ripeto, se dai colpi di portante poi realmente non ti metti neanche nella condizione di danneggiare niente. Perché adesso ad esempio di stazionare ce l'ho belle alte perché non sono nel mio QTH e quindi non ho l'antenna va un attimino accordata perché l'arringo, però non l'arringo deve essere alta, no, 4,80 m. Siccome non lo sapevo questo perché non avevo preso le misure dell'antenna, questa qua l'ho allungata di più. Quindi antenna lunga c'hai soprattutto nei canali bassi, dovrei avere, e viceversa, comunque antenna lunga, canali bassi stazionari e viceversa. Quindi la devi fare 4,80 e allora ottieni le stazionarie a 1,1. Devo un attimino abbassarla, soltanto che gli ho già messo il vulcanizzante, quindi devo fare un po' un lavoro, gli ho messo anche la vasellina. Devo fare un attimino. Comunque per fare tutti questi esperimenti qua dovresti avere un baracchino con cui fare gli esperimenti, che anche se gli bruci i finali ciccia, capito? E allora ti puoi sbizzarrire, prendere, fare un'antenna con qualsiasi cosa, si mette nella condizione di irradiare il segnale. E quello sì, ma giustamente non credo che si brucino così in fretta alla fine i finali. Basta non stare sempre lì con la porta riattaccata, con lo strumento sempre pronto, in modo che ti faccia vedere, quindi ti diciamo là la situazione come sta andando. E mi piace inventare, sai, fare qualcosa con le mie mani, per dire questo l'ho fatto io e sono contento di averlo fatto. Ma vediamo un po' cosa ne si fuori e qualche cosa, dai, lavorando oggi un po' domani, un po' oggi un po' domani si riesce a toglierne qualcosa di nuovo alla fine. E poi noi dalla favola, se possono cambiare le leggi, credo che non ci siano leggi in cui ti dica che non posso usare un'antenna autocostruita, sbagli, perché per assurdo, adesso ti parlo per sentito dire, però anche l'antenna che tu monti deve essere montata da una persona specializzata, o meglio da una persona che ha un attestato per poterle fare, perché realmente a seconda di come monti l'antenna potresti, anche se è un'antenna comprata, acquistata al negozio, potresti montarla in modo tale, cioè in maniera erronea, e creare delle spurie, o comunque dei problemi, almeno così poteva succedere prima, di TVI e di vario genere. Ecco, ma a quanto pare, adesso con il digitale terrestre non ci sono più questi problemi, perché io prima di montarla sul tetto l'antenna, era attaccata all'antenna di casa. che si usa per il televisore. Lo modulavo tranquillo, non l'ha mai disturbato. Sopra l'antenna di casa? Sì, sopra, da ci mancavano due dita, si così attaccavano completamente le antenne, non mi ha mai disturbato. Perché vuol dire che riusciva a irradiare bene senza entrare, però ti ripeto, adesso problemi di TVA non ce n'erano. Poi sai che cos'è? Molto spesso chi ha problemi di TVA, o meglio, quando c'era TVA, era dovuto al fatto che per far avere il guadagno maggiore, l'amplificatore d'antenna si giravano le rotelle al massimo e tirava dentro di tutto, quindi il sistema centralizzato di solito, perché di sistema centralizzato si parlava di solito, dei palazzi. E se dovesse succedere che la polizia postale viene scomodata per problemi di TVA e si rende conto che chi ha fatto la denuncia poi ha l'amplificatore d'antenna, si becca una di quelle multe che la metà basta. Ah ecco, ho capito, e dunque siamo lì, no, bene o male non possiamo coperti. No vabbè, ma alla fine vedo che io sono mudato anni qua, nessuno si è mai lamentato, ma non credo che dia problemi un bipolo, ma alla fine problemi non ce n'è. No, comunque non volevo ricostruirlo, là vedo un po' cosa ne c'è fuori. Io poi il capo ce l'ho e dovrei averne anche abbastanza, adesso domani lo cerco e poi se ho 5 minuti, se ce la faccio, tanto quanto spendere 5 euro per un maschio e una femmina, dai, già non è così tanta la spesa e vediamo un po' cosa ne esce fuori, dai. Attenzione Antonello, prego. Ehi, buonasera Dinamite, buonasera. Buonasera, buonasera, qua è la finanza, buonasera. Per favore, documenti, cambio. Leoncino, la Dinamite. E Leoncino. Vieni a fare tu e tu, brutto, grotte, eh? Ma non distingue il segnale, vieni buono, già arriva domani così, cosa, Dinamite. Tiro, e beh, Antonio. La voce ce l'aveva uguale, identica. Guarda una bomba, cosa hai fatto? Antonello! Ehi, narrami tutto! Antonio, cos'è che hai fatto che c'è il segnale alto? Affari miei sono, così. Lo seguo la macchina. Ma sono sotto casa tua, anzi, della tua 25, prego. Bisogna pregare, ma davvero sei in macchina? Va. Mi stavi arrivando troppo forte? Dammi un controllo, fai favore, Grodino. O Grodino, come vuoi ti chiami? Tappa un Grodino, sei Santiago 920, anzi è 30, e radio 5, a bomba. Cappa, dai, ok, dai. Ah, vai, Antonè, come ti sto arrivando lì a Ossi? Sì, Santiago 8, una radio di 5, bella, pulita, tranquilla. Comunque la voce... era uguale identica a Minestrone. Minestrone? In che senso? Noi lo chiamiamo Minestrone a Dinamite di soprannome, Minestrone o Patasciutta, quello di Chiaramonte, mi sembrava proprio lui, Vabbè, comunque, no, sono in una zona X, hai capito? Buon divertimento allora. Sono... Anche se Grudino non mi ha scoperto, sono a Platamona io, dai. E smettila, davvero? Caffa, se sai cosa c'ho in macchina, che stasera mi hanno prestato una questione, come ti sto arrivando a te? E a Platamona sono al quinto pettine. Sei doveri con riportare il pargolo. Caffa. Mando una bomba, te l'ho detto, sembri qua giù. Ma cos'è, ciabatta? Mi chiamo stivale. No, diciamo che è un canotto. Non ti si accende la macchina? Cos'è, hai detto, Grudì? Lo tieni accesa la macchina, che ti butta in terra la batteria, secondo cos'è? No, non me ne butta mai, stai tranquillo, c'ho la batteria da 75, ce l'ho. Quant'è la scarpa? Piccolina, piccolina. 300, perché troppo è. Oh, beh, bisogna vedere cosa ci vuoi fare. Se per le tettine di cavallo sì, perché vanno appena scottate. E vabbè, dai, riprendetela tutta quanta, fretta, però, Brodi. Sta un attimino, ma sei a tutta canna o no? No, non sono tutta canna. Poco a poco. A tre. Stare a vedere come arrivi. Dentro c'è un po', hai capito? Non sono solo provato, ma l'hanno prestato. Sono a tre e basta, dai. Oh, Brodi. Sto per vedere come aumentava, perché così è già una bomba. Guarda per vedere. Uno, due, tre, prova, controllo. La crepatura, già va bene. Ne ho visto uno di quelli, che costa troppo, se no me lo sarei preso. Vabbè, scappa, dai. Ok, riprendi tra tu, Antonio, dai. Ridendo alla giura, boh. No, perché ci... State ridendo. No, un pinocchio che faccia anzi una troia che voleva andare a scoppare, capito? Vabbè, dimmi tu. Boh, riprendi Antonio. Io sono che ti dica, boh. Niente, in questi casi bisogna tacere. No, sinceramente no, non mi viene in mente nulla, anzi me ne vengono tante, ma sai, me le tengo per me, dai. Un attimino, a proposito, guarda che sono andate un po' fuori fase determinate cose, e cioè ci saremmo dovuti vedere sabato e non ci siamo visti perché non mi aveva ancora compilato quella cosa la commercialista, quindi ti contatto domani sera sul tardi. Mentre invece per quella cosa tua vai liscio che domani contatto quella persona, me ne ricordo domani mattina verso le 10:11 vado a trovarlo. Speriamo. Sul fatto che io vada tu ci devi contare, sul fatto che poi la cosa andrà in porto, quello ci devi sperare. È per quello che mi è uscito un sospiro grande là dentro. Ti ripeto, senza assicurazione, ma questo qua lo sai benissimo, non è. Quello che posso fare è questo, è quello che farò domani mattina. Sarà la prima cosa. È quello lì, di telefonare a questa persona qua con cui andare lì, o comunque a cui dare la cosa, vediamo un attimino, se non è che basta solamente il nome, allora ci andrai direttamente tu. Lo so, ma comunque diciamo, ma nel senso, per questa cosa hai sentito che gli serviva oppure no, o stai provando così, diciamo, va? Dici la verità, ho sentito che gli serviva, nel senso che quando ho telefonato a questa persona per chiedergli se a quella persona serviva una persona, mi ha detto che stava cercando una persona, anzi più di una persona, o meglio, quando ho chiesto a questo qua ho detto guarda che c'è questa persona, dice sì, so che ne sta cercando, ne sta anche cercando, perché io ho fatto due nomi, che il primo non era quello, capito? Ho capito, speriamo che non li abbiano trovati. Oh vabbè, ma non pensare che sia poi alla fine così facile trovare persone capaci. Comunque domani mattina facciamo questa cosa e se va bene va bene, se non va bene, sai, le cose sono un po' strane, quando si fanno per interposta persona non sempre vanno in porto, non sempre vanno come dici tu. Ad esempio io ti ho detto che sarebbe dovuto uscire già da tre giorni fa un articolo. Non è uscito, ma perché? Perché a me mi hanno detto, guarda, non c'è problema in questi giorni, ma forse anche da domani. E siccome non lo stampo io, né tantomeno questa persona al potere, sicuramente sarà domani, sarà dopodomani. Prima o poi uscirà. E non mi posso dare le colpe di una cosa che non posso fare direttamente. Se fosse dipeso da me, sarebbe stato fatto tre giorni fa. L'ho fatto anch'io in questi giorni, ho guardato sempre il giornale, però non ho trovato nessun articolo. Ma speriamo che non se ne dimentico di metterlo, questa roba. Non è che sia urgente, però sai, nel momento in cui allerti le persone, poi alla fine non è che fai una bella figura. Il problema è che ti gira le palle, che vai a vedere che stanno pubblicando da tre giorni la sagra del vitello, la sagra della zacchizza, la sagra del coso, e via l'Italia che è in contromano, cioè che stanno facendo i lavori, ce ne siamo accorti. E poi magari, ti ripeto, ti mandano indietro una cosa del genere che non è che sia importante, però è un attimino più... Beh, quello sia un pochettino qualcosa di positivo, sì, perché a volte se ne riempiono di mondezza, ne mettono nel giornale tanto per completare la pagina, quello già è vero. Va bene, dai, io vado andando, se preparo ancora per domani presto, dai, e andiamo di nuovo lì a Valghero. Poi nel caso, se c'è qualcosa di positivo, per me fai uno squillo e accendi il fuoco d'artificio, dai. Più che altro, allora, no, per concludere il discorso della nuova, purtroppo è un giornalaccio dove a volte pubblicano per tappare i buchi anche le liti condominiali e magari ti trovi in prima pagina perché magari hai bisticciato col vicino, magari hai chiamato le forze dell'ordine, quelle sono arrivate, fanno la registrazione, arriva l'ultimo dei giornalisti, fa la lettura e ti ritrovi in prima pagina per cagate. Non è la prima volta che se le leggono, mi sembrano ciaramedi proprio di condominio. A prescindere da quello ti sto dicendo, l'unica cosa, se dovesse chiedere la disponibilità per andare lì una mattina, ce l'hai per poterci parlare? Sì, cerco milioni di modi di esserci, o di mattina o di sera. Sì, già la trovo la soluzione, per forza. Dai. Nel caso ti faccio sapere, adesso domani mattina contatto questa persona e vedo di incontrarlo, gli do quella cosa che mi hai dato. Aspetta un attimino prima di andare in QRT, che facciamo una chiamata al Leoncino. Attenzione Leoncino. Chissà cosa sta combinando. Ieri cosa sta combinando. Comunque dai Antonio, ben sentito, ben ascoltato, spero domani di poterti dare buone notizie. Buon QRT e buon 144, ad occhi chiusi soprattutto. Ma mi dubbi, comunque ci provo, dai, ti ringrazio, ci sentiamo domani allora, o ai prossimi giorni, dai, ti auguro buonanotte allora, ci sentiamo. E a te nel caso comunque ti faccio una passa, dai, ciao ciao. Via, grazie.